Opinione Libera presenta Lucciole nelle Tenebre. Benvenuti gentili ascoltatori, siamo a Radio Fujiko, io Francesca e io Pietro, e salutiamo anche il nostro amatissimo tecnico Stefano, che è sempre qui presente e ci allieta con la sua presenza. Allora, oggi di cosa parliamo? Parliamo di Commissione Antimafia. Sì, dopo 7 mesi siamo riusciti ad avere la fumata bianca per la Commissione Antimafia, che è stato un travaglio dolorosissimo, in cui immaginerete l'ansia dei politici che sentono molto questo problema e quindi ci hanno messo tanto ad elaborarlo, a tal punto che dopo 7 mesi sono riusciti a spartirsi le poltrone della commissione non essere nemmeno soddisfatti, come esatto, sempre. Infatti il PDL ha già detto che non parteciperà all'Aventino perché sono contrari all'elezione della Bindi, e non abbiamo ancora capito se è un bene o un male. Esatto, l'elezione della Bindi o che il PDL è contrario. Entrambe, va bene. E praticamente quindi la commissione dunque adesso inizierà, e commissione forse, che però ahimè non ci soddisfa più di tanto. Sì, sono usciti tantissimi articoli su questa nuova commissione, sui nomi della commissione, e effettivamente tra l'altro era stata promulgata una legge a luglio di quest'anno 2013, la legge numero 87 del 19 luglio, e all'articolo 2 si legge che comunque i membri della commissione, come sembra logico, essendo questa una commissione anche abbastanza particolare di cui poi ve ne parleremo, dovrebbero avere comunque delle caratteristiche comunque affini, cioè di fatto non aver ignorato fino a questo giorno cosa fosse. Non è così. Partiamo secondo me con un'infarinatura storica di questa noiosissima infarinatura storica sulla commissione antimafia, come nasce, perché è nata e insomma come è proseguita. Sì, dunque iniziamo dal 48, anche perché in realtà, come sappiamo, come tutti i nostri gentili ascoltatori numerosissimi sanno, perché ci seguite sempre, il fenomeno della mafia è molto più antico, però nel 48, dopo la promulgazione della Costituzione eccetera, nasce quest'idea, che naturalmente viene subito cassata, di una commissione che non tratti proprio di mafia ma dell'ordine pubblico in Sicilia, quindi confinato in Sicilia, e appunto che tratti dell'ordine pubblico, un nome abbastanza così aleatorio. E naturalmente su questa proposta vi è subito una infelice affermazione del ministro Scelba, che dice: ma guardate che alla fine io non vedo tutto questo problema di mafia, avevano solo aiutato gli americani a sbarcare in Normandia, però la storia gli ha dato ragione. E poi proseguiamo negli anni, e alla fine nel 62 viene istituita la prima commissione antimafia, anche se in realtà erano commissioni antimafia un po', diciamo, sprovviste dal punto di vista giuridico di una solida base, tant'è che solo nell'82, dopo la morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa e la promulgazione dei 416 bis, viene sancita a livello giuridico la pena per l'associazione di stampo mafioso con la legge Rognoni-La Torre. Sì, quindi di fatto dal 61 all'82 non avevano nemmeno i mezzi effettivamente giuridici. Però è una commissione particolare, la commissione antimafia, perché comunque è l'unica commissione parlamentare che ha poteri di inchiesta, cioè si può avvalersi dell'ausilio della polizia giudiziaria, condurre all'interno della commissione, ci sono dei comitati che comunque conducono appunto delle indagini che sono anche segrete anche all'interno della commissione stessa. E quindi ha vari compiti la commissione. Vuoi illustrarli tu, Pietro? Sì, stavo tossendo, scusami. E praticamente sì, i compiti della commissione sono innanzitutto di studio del fenomeno mafioso e di trovare anche delle manovre per la prevenzione dello stesso, quindi anche a livello di istruzione, informazione, scuole, anche di informazione, e appunto i poteri investigativi di cui parlava la bravissima Francesca. Grazie. Diciamo che le commissioni antimafia che si sono succedute finora nella storia non sono state proprio tutte all'altezza del compito, anzi, per la verità, a noi piace ricordarne solo una come un esempio di effettiva commissione con i contro coglioni, vabbè, ognuno la chiama come vuole, e che sarebbe la commissione guidata da Francesco Forgione, che da, è un grande, un gran chitarrista, ecco, tra l'altro, appunto, dal diciamo. 2006 al 2008, è durata poco, era stata istituita sotto il governo Prodi e appunto si era contraddistinta per essere la prima commissione che ha parlato di 'ndrangheta, e soprattutto dopo la strage di Duisburg, sì, infatti, 2007. Stra interessante questa commissione, perché comunque parte dal, cioè parla del tema mafia partendo da una prospettiva europeista, cioè nel senso parla del, di una strage che è successa in Germania, e da lì cioè ritorna indietro fino a San Luca, la madre patria dell''ndrangheta, e quindi è molto interessante questa prospettiva molto più ampia e più allargata. Assolutamente, e direi basta con la storia, sì, della commissione, che siamo stati già abbastanza lunghi. Lanciamo un pezzo scelto da Francesca, che non sa pronunciare, sì, no, infatti mi scuso con i eventuali portoghesi e con gli ascoltatori, tra, sì, l'altro. Il pezzo è Sodad di Cesaria Evora. Debba incominciare a lavorare, abbiamo già perso molti mesi nei veti incrociati, ci dovremmo unire per gli scopi e le finalità della commissione, che sono quelli di fare la lotta, di combattere la lotta alla mafia, Con queste parole Rosy Bindi ha aperto il suo mandato da presidente della commissione antimafia. Ovviamente era una gaffe, però insomma è divertente. Si apre col botto. Esatto. Rosy Bindi, tra l'altro, che come diceva prima la Francesca, in questa commissione le persone sono state scelte accuratamente perché impegnate nel tema della mafia. Infatti non ha mai parlato di mafia, credo, nella sua vita prima di oggi, tra l'altro con un'uscita infelice. Vabbè. Sì, ma fra l'altro era anche candidata in Calabria, pure vinto, ma... E va bene, non importa. Ha un po' messo la cosa. Però in effetti non c'erano dei gran nomi. No, sì, sicuramente, cioè, non è la peggiore. Formata la commissione, poverina. In fondo a lei non si può dire nemmeno troppo. Infatti uno dei membri di questa commissione è Giovanardi del PDL, Carlo Giovanardi. Grande. Il grande Giovanardi. Che in tutti i sensi. E, Giovanardi possiamo ricordare tra i tanti meriti, è stato quello comunque di opporsi con una audizione parlamentare per sbloccare... Per sbloccare gli accertamenti della prefettura che la prefettura stava svolgendo sulle industrie colpite dal terremoto in Emilia, accertamenti che venivano fatti naturalmente per evitare infiltrazioni mafiose della criminalità organizzata in generale, che erano sicuramente ansiosi di sfruttare la situazione in cui si trovavano le persone in Emilia colpite dal terremoto. E questa proposta viene bocciata, però insomma una sensibilità fortissima verso questo tema. Assolutamente, effetti, così come la sua fieri. Collega Mara Carfagna, e c'è anche lei, signore. C'è anche lei, allora. Lei non so nemmeno cosa dire su di lei, sinceramente. Povera ragazza. Però vabbè. Ma non sono gli unici, ovviamente, perché no. Perché non ricordare gli altri. C'è il simpaticissimo deputato Carlo Sarro, che è da sempre vicino alla famiglia di Nicola Cosentino, che è stato sottosegretario, un ex sottosegretario e oltretutto indagato per l'associazione di stampo mafioso in Campania, per Camorra, insomma, quindi capirete bene che conoscerà sicuramente bene l'ambiente, ma dalla parte sbagliata. E tra l'altro ha avuto un po' una diatriba con Ciotti. Ha presentato un'interrogazione parlamentare contro Libera e Don Ciotti, quindi capirete che a noi ci sta pure un po' più sulle palle degli altri. Ma tra l'altro tutto ciò sempre su un condono edilizio, perché qua ci marciano. Sì, lui era assolutamente diciamo che non criticava i condoni edilizi. Anzi. Segue Donato Bruno, altro candidato del PDL, che insomma è vicino a Cesare Previti, pluri indagato, pluri condannato PDLino, che si è sempre opposto al regime del carcere duro, il 41 bis introdotto nel 2002, appunto, che è stato una delle maggiori armi di contrasto contro la criminalità organizzata, sul quale in effetti potremmo anche aprire ampi dibattiti, sì, però insomma no. La posizione di... no. E segue, ricorderei come last but not the least, Claudio Fazzone, che è fondamentalmente questa figura abbastanza importante all'interno del PDL, che si è battuto contro lo scioglimento per mafia del comune di Fondi per ben 3 volte, e alla fine ha vinto, perché il comune di Fondi non è stato sciolto, nonostante fosse stata accertata la presenza della mafia, chiaramente, però lui si è opposto e l'ha avuta vinta, ahimè. Questa è la nostra commissione, i membri proprio peggiori, possiamo dire, però dai, si può anche cercare di tirare sospiri di sollievo, a stento in realtà, però insomma c'è anche qualcuno di... decente in mezzo a tutto ciò. I vicepresidenti della commissione sono, cioè, tra questi c'è Claudio Fava, che insomma è sicuramente molto più vicino di tutti i precedenti nominati, così come c'è Lucrezia Ricchiuti, che era vice sindaco di Desio, un'amministratrice che si è sempre impegnata contro la corruzione e contro l'andrangheta nel suo paesino. Possiamo citare ancora Davide Mattiello, che è da sempre lotta contro le mafie, è stato anche coordinatore nazionale di Libera e si è sempre ha speso tutta la sua vita appunto contro di esse. E comunque anche Rosaria Capacchione, che è una giornalista che si è sempre battuta contro la camorra. Dunque, insomma, questa è la commissione che ci troviamo. Adesso vediamo gli sviluppi. Certo è che appunto il PDL è sul piede di guerra. Vedremo come andrà avanti. Di certo c'è che la Bindi è la presidente vicepresidente ci sono appunto Claudio Fava, come dicevamo prima, di SEL, e Luigi Gaetti del Movimento 5 Stelle. La cosa sicuramente sconfortante è questa lotta intestina continua per un mini potere, un po' cioè veramente becera, soprattutto sì, quando si tratta di temi così essenziali, così importanti e soprattutto prestanti. Potremmo chiudere questo, tutto ciò, dando una buona notizia. Sì, buona per buona modo di dire, relativa, però insomma, però se non altro la verità è una volta è venuta la galla e il lavoro di una giornalista lombarda giovanissima di 23 anni, credo, che non è ancora nemmeno laureata in lettere e che da anni ormai andava avanti facendo inchieste sulle infiltrazioni mafiose dell''Ndrangheta nel suo comune, ha effettivamente appurato che aveva ragione, quindi il comune di Sedriano è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Non sì, è una appunto, buona notizia, ma se non grazie, altro grazie a Esther Castano il comune di Sedriano è stato sciolto, è il primo comune del nord a essere sciolto per mafia. Dunque lanciamo un pezzo che alleggerisce il tutto. Sì, e di cui tra l'altro nessuno di noi due sa il nome davvero. Lo facciamo quindi lanciare a Camilla. Sì, c'è ospite Camilla che lo lancerà lei a questo punto, direi. Il pezzo è Sun It Rises, tratto dal primo album omonimo dei Fleet Foxes. Dunque, adesso torniamo alla nostra consueta rubrica Buffier, che secondo me dovremmo a un certo punto, caro tecnico, introdurre con un jingle riconoscibile ai nostri ascoltatori. E oggi la nostra Francesca ci leggerà la storia di Eugenio Montale. Però prima diciamo che diamo un attimo uno spazio ai nostri futuri appuntamenti a cui vi vogliamo invitare. Dunque, il primo in ordine di tempo è il 5 novembre a Giurisprudenza. Si terrà una conferenza con Montanari. Stavo per dire Eugenio Montanari, invece no, è Tommaso Montanari. E la conferenza si inserisce nel ciclo di Libera la bellezza, tra le macerie della bellezza. Questa conferenza si chiama Estetica civile e parliamo di arte come strumento politico. Invece il 7 novembre al Circolo Arci La Paresse in via Vesella si terrà un incontro sul gioco d'azzardo alle 4:30 con ospiti di Daniele Poto, che ha scritto vari libri sul rapporto tra mafia e 'ndrangheta, Graziano Bellio, che è un medico psichiatra è difficilissimo e che si occupa delle dipendenze, così come Matteo Iori, che è presidente dell'associazione Giovanni XXIII. Dunque, ora ci dedichiamo alla parte culturale della nostra puntata, che ci piace tanto e che ci sta accompagnando da inizio anno. E oggi leggeremo la storia di Eugenio Montale. Direi che non è necessario fare tante introduzioni perché insomma, Pietro non si sente all'altezza. Esatto, insomma, la poesia è già bellissima di suo così, non voglio rovinarla. Ciao a tutti, alla prossima. La storia non si snoda come una catena di anelli ininterrotta. In ogni caso molti anelli non tengono. La storia non contiene il prima e il dopo. Nulla che in lei borbotti a lento fuoco. La storia non è prodotta da chi la pensa e neppure da chi la ignora. La storia non si fa strada, si ostina, detesta il poco a poco, non procede né recede, si sposta di binario e la sua direzione non è nell'orario. La storia non giustifica e non deplora. La storia non è intrinseca perché è fuori. La storia non somministra carezze o colpi di frusta. La storia non è magistra di niente che ci riguardi. Accorgersene non serve a farla più vera o più giusta. La storia non è, poi, la devastante ruspa che si dice, lascia sotto passaggi, cripte, buche e nascondigli, c'è chi sopravvive. La storia è anche benevola, distrugge quanto più può, se esagerasse certo sarebbe meglio, ma la storia è a corto di notizie, non compie tutte le sue vendette, la storia gratta il fondo come una rete che a strascico, con qualche strappo e più di un pesce sfugge. Qualche volta si incontra l'ectoplasma ad uno scampato e non sembra particolarmente felice. Ignora di essere fuori, nessuno gliene ha parlato, gli altri nel sacco si credono più liberi di lui. Eugenio Montale. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia. L'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia. L'Italia sulla luna. viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.